Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Zibaldone e vedrete, è una puntata molto musicale, molto attuale. Cominciamo con questo brano. Through the winter's ice and cold, down Nicollet Avenue, a city of flame fought fire and ice, neath an occupier's boots. King Trump's private army from the DHS, guns belted to their coats, came to Minneapolis to enforce the law, or so their story goes. Against smoke and rubber bullets, in the dawn's early light, citizens stood for justice, their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood, and two dead left to die on snow-filled streets, Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots, and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir, just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Noam's dirty lies. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. La voce del boss, una canzone che ha già fatto il giro del mondo, per quanto sia uscita da pochissimo, da praticamente un mese circa, era il 28 gennaio quando Bruce Springsteen faceva uscire questa Street of Minneapolis. Ma do subito il bentornato e auguro buon pomeriggio al nostro caro Banzo. Banzo, come va? Buon pomeriggio Steven, buon pomeriggio a tutti. Ma guarda, il tempo in radio è tiranno, lo dice sempre qualcuno che conosco e quindi non mi dilungo sulle questioni personali, ma passo a bomba a presentare questa puntata che si intitola No Kings, canzoni contro Trump. Ecco, ci voleva. Credo si fosse già capito dal primo brano, poteva anche essere una puntata con una qualunque altra tematica introdotta da una canzone nuova, perché effettivamente di questo si tratta, però ne abbiamo tratto lo spunto per un bel monografico, perché ovviamente Trump è un personaggio che è sulla scena pubblica americana da svariati decenni come imprenditore, ricordato per quel cameo in Mamma ho riperso l'aereo, cose importanti. Però ovviamente è da quando si è candidato a presidente la prima volta che ha suscitato le reazioni più poderose, sia quelle positive che non ci interessano perché siamo chiaramente posizionati dall'altra parte della barricata, sia quelle negative che andiamo un po' a a sondare con questa selezione di brani che ovviamente non vuole essere esaustiva, ma forse prima di passare al brano successivo è meglio dire due cosine sulla canzone di Springsteen, Steven. Cominciando sì, magari sì, da una citazione, Banzo, no? Ho scritto questa canzone sabato, l'ho registrata ieri e l'ho pubblicata oggi in risposta al terrore di Stato che sta colpendo la città di Minneapolis, è dedicata alla popolazione di Minneapolis, ai nostri innocenti vicini immigrati, alla memoria di Alex Pretti e René Good, no? Così la presentava lo stesso Springsteen un mese fa. Sì, diciamo che il contesto è già chiarissimo, non c'è bisogno di articolarlo, se avete seguito in qualunque modo l'informazione mondiale dell'ultimo periodo, diciamo, è tutto chiarissimo. Potremmo dire però questa canzone, forse i fan del boss se ne sono accorti istantaneamente, riprende un brano storico di Springsteen che è States of Philadelphia del 94 e diciamo che la riproietta in un contesto diverso e non sarà l'unica canzone a attuare questo procedimento, ce ne sarà almeno un'altra come vedremo più avanti. Eh sì, e noi infatti andiamo avanti, in realtà rimaniamo proprio negli stessi giorni perché è proprio quello stesso 28 gennaio del 2026 che dopo appunto settimane che avevano segnato tante persone, tra cui anche noi, quello che stava succedendo a Minneapolis, senza contare il resto tra il Venezuela, la Groenlandia e così via, e sempre ovviamente la Palestina, Billy Bragg componeva un brano intitolato City of Heroes, che ovviamente si collega strettamente al brano del boss che abbiamo appena sentito. Ce lo andiamo a sentire e poi torniamo qui. Billy Bragg, Cities of Heroes. The ghost of Martin Niemöller haunts the halls of history. When they came for the communists, he said it's nothing to do with me. When they came for the Democrats, he had nothing to say. And when they came for Jews, he just looked the other way. His silence didn't save him. When they came for him as well, there was no one to speak out for him. Resistance had been quelled. What excuses would you tell yourself if this ever happened to you? Well, I live in a city of heroes. I know what I would do. When they came for the immigrants, I got in their face. When they came for the refugees, I got in their face. When they came for the five-year-olds, I got in their face. When they came to my neighborhood, I just got in their face. They used tear gas and pepper spray against our whistles and our phones. But in this city of heroes, we will protect our home. When they drag people from their cars, I got in their face. When they took families from their homes, I got in their face. When they murdered our sister, I got in their face. And when they murdered our brother, I still got in their face. In Dachau, Martin Niemöller suffered for his complicity. But in this city of heroes, we learn the lessons of history. I will bear witness to terror. I will bear witness to tyranny. I will bear witness to murder. I will bear witness to fascism. Un brano anche in questo caso, come per il boss, scritto in meno di 24 ore, registrato, lo avete sentito, solo voce e chitarra, un tributo, lo ha definito Billy Bragg, al coraggio del popolo di Minneapolis, con riferimenti, forse li avete capiti, a tante cose, ma soprattutto Fausto, a cui do anche il bentornato a Zibaldone, con un chiaro riferimento a un famoso testo di Martin Niemöller. Sì, ciao Steven e buon pomeriggio a tutti. Ecco, differentemente al brano di Springsteen, che anche musicalmente avete sentito è molto più arrangiato, qui abbiamo proprio una instant song, voce, chitarra, nuda e cruda, e che ha un punto di vista, diciamo, più europeo. Cioè, Billy Bragg pensa al nazismo, all'ascesa del nazismo in Germania negli anni 30, quando appunto il teologo e pastore luterano Martin Niemöller inizialmente sostenne attivamente il nazismo, sostenne Hitler e spostò la Chiesa luterana verso quelle posizioni, per poi comprendere l'errore fatto, diciamo, negli anni successivi e finire già nel 1937 in un campo di concentramento e uscire da Dachau, credo, solo nel 1945. E quella che cita Billy Bragg è fra l'altro un testo spesso erroneamente attribuito a Brecht, ce lo ricordiamo tutti, quello quando vengono a prendere i comunisti, io non feci nulla perché pensavo, io non ero comunista, ecco, questo l'abbiamo trovato parafrasato in mille versioni, e invece era uno dei sermoni che Niemöller pronunciava in giro per la Germania per ricordare proprio con cittadini che cosa significava, cosa aveva significato in quel paese l'apatia politica, quindi voltarsi dall'altra parte, pensare non mi riguarda, I don't care, non mi interessa, cosa invece che appunto è il contrario di quello che hanno fatto gli abitanti di Minneapolis nelle giornate della resistenza di queste ultime settimane. Noi rimaniamo al 26 con un altro brano uscito da pochissimo di Mitch Ben, Ice Maybe. Ce l'ascoltiamo e poi ne parliamo, perché insomma riguardo a Ice e Ice Baby, insomma, anche il trumpismo ha utilizzato questa storica canzone, ma sentiamoci questa versione che è molto più bella e molto più politicamente rilevante. Eccola qui. Yo, DHS. Me, Bob, with no job, is downhearted. Never finished school, never really started. Trapped in a meaningless existence. Saw a commercial and decided to enlist in the military to serve his nation. Couldn't pass the psych evaluation. Tried to join the cops, really did his best, but he failed the medical and the literacy test. Frustration at every stage. He's a ball of resentful, pent-up rage. Thinking about putting a bullet in his brain. When a YouTube video with Dean Cain said, Ice. In the penitentiary for crippling a cop on the 6th of January. Pardoned by the man in charge, now he's at a loose end and at large. Can't find gainful employment any place with the swastika tattoos on his face, so he's hanging in bars, wandering the streets till a couple of the fellas at the Proud Boys meet said, Ice, Ice, maybe. We were thinking about joining. Ice, Ice, maybe. You get 10 grand for joining. Ice, Ice, maybe. Got nothing else going on, let's join. Ice. They're rolling in the SUVs, free to do whatever they please, spreading fear wherever they roam, following orders from Christine Nome. They all got guns, they all got masks, some poorly defined enforcement tasks. Driving around town with the windows down, looking out for anyone suspiciously brown. They're rounding up Mexicans, Puerto Ricans, Hopis, Navajos, and Mohicans. We were here first. Hey, shut up, old man, quit weaving your blankets and get in the van. Ain't no surprise, ain't no mystery, it's about skin tone, not history. They're not here to try to make things right again, they're just here to make America white again. Ice, Ice, buddy. Yeah, you're in. Ice, Ice, buddy. Relax, cause you're in. Ice, Ice, buddy. What they gonna do, you're in. Ice, Ice, buddy. Nerves are stealing, eyes like an eagle, combing the streets of the city for illegal immigrants. But it ain't about race, they'll shoot anybody gets up in their face. The terrorists they protect you from, like nurses and suburban moms and toddlers in teddy bear hats. The optics suck, but they won't let that deter them from policing the community. J.D. Vance gave them absolute immunity from justice, and Stephen Miller has concentration camps to felonies screaming. Get out there, fools! Raid those churches, raid those schools, ethnically cleanse the USA! While President Trump is asleep all day. Ice, Ice, buddy. You better let us in, because we're Ice, Ice, buddy. We don't need no warrants, cause we're Ice, Ice, buddy. And we don't need no badges, cause we're Ice, Ice, buddy. Stop filming me, I'm shy. 10 grand for joining, but you missed that bit. Says you gotta pay it back if you ever try to quit. You're following orders. It's true, does Nuremberg mean anything to you? This may be an unkind thing to say, but Trump looks like he could go any day. The resulting power vacuum for the little guys could spell doom. Cause when things get acrimonious, you're gonna be the first ones under the bus. So enjoy this while it lasts, ignoring the lessons of the past. Cowards and weaklings never prevail. Sooner or later, fascism fails. You heard it hit first from your old pal Mitch. Accountability, it's a bitch. We out. Word to your commandant. E qui ci vuole, secondo me, Fausto, un po' di spiegazione per i nostri ascoltatori per capire questa parodia di Mitch Ben, che in realtà prende veramente per i fondelli Vanilla Ice, che è diventato un trumpista sfegatato. Sì, fra l'altro, forse i più giovani non si ricorderanno Vanilla Ice. Potrei pensare a lui, a uno che, al cui confronto il giovanotti di Gimme Five era De André. Quindi questo per dire quanto il suo rap bianco, che più bianco non si può, inoffensivo, privo di impegno politico. Non ne parliamo ovviamente di impegno sociale. Uno che il massimo che ha fatto è stato cantare nel film delle Tartarughe Ninja, parlando sempre di ospitate celebri. In questo caso lui ha duettato con le Tartarughe. Ma banalmente Robert Van Winkle, che è il suo vero nome, quindi ha questo primo grande successo che nel 90 esce, ed è appunto Ice Ice Baby, che si basa fra l'altro sul riff di Under Pressure dei Queen con David Bowie. È spopola all'epoca, però già all'epoca i comici americani lo prendono in giro, perché effettivamente è improbabile questo bianco viziato, ricco e viziato, col cappellino girato all'indietro, ecco. E, diciamo, trumpista, fra l'altro, lui è spesso ospite di Trump nei suoi capodanni. Ho letto questa cosa, quasi tutte le feste di Capodanno, le ultime feste di Capodanno di questi anni, lo vedono protagonista, perché appunto, stranamente, questa musica così loffia piace molto a Trump. Mentre invece non piace appunto ai comici, che lo prendono in giro. Mitch Ben è di Liverpool, quindi parliamo di un comico inglese, musicista e scrittore, che è specializzato in comedy song. Fra l'altro nel 2020 aveva già realizzato un interessante concept intitolato The Trump Album, quindi il contenuto penso sia abbastanza chiaro. E quindi proprio anche recentemente, parliamo del 2 febbraio, ha pubblicato questa parodia che diventa appunto Ice Ice Maybe, che naturalmente gioca appunto sul parallelo Vanilla Ice, è naturalmente la polizia, possiamo chiamarla la polizia privata di Trump, quello che effettivamente è, e quindi l'ha presentato ovviamente in tono sarcastico come un tributo ai coraggiosi eroi mascherati che proteggono l'America da infermieri, mamme e persone di colore. E tra l'altro nomina, insomma, l'avete sentito, Steven Miller, Kristi Noem, tra gli altri, G. Dei Vance, eccetera. Insomma, è un testo comunque da ascoltarselo. Noi adesso facciamo un passo indietro, perché in realtà, insomma, su Trump sono uscite tante canzoni come minimo dal 2016, quindi al di là delle ultimissime che insomma adesso ci siamo ascoltati, adesso facciamo un po' un salto indietro. Andiamo proprio al 2016, dove troviamo questa I Hate Donald Trump, ossia Odio Donald Trump, di Emilio Rojas. Eccola qui. It has not been easy for me, and you know, I started off in Brooklyn. My father gave me a small loan of $1 million. Donald's daddy was a Klansman. He was spreading hate back then. Got arrested in 27 for hate speech against black men. Now his son is on the same shit. I guess that he raising him wrong. I guess that the apple does not fall that far from the tree that they hang the minorities on. Corporate pawn, reality star, building his wealth on the backs of the poor. Using illegals to work in his buildings, and then when they finish, he wanna deport. Hold up, hold up. Man, fuck that motherfucker, man, he gon' have toupee. He the first one reppin' for the Klan on live TV in a bad toupee. I ain't watchin' the base, cause that shit was like a circus act. And the worst part about the whole thing is that America is gon' vote for that. I hate Donald Trump, he's a racist piece of shit. I hate Donald Trump, he can suck my dick. I hate Donald Trump, he's such a fucking prick. I hate Donald Trump, I hate Donald Trump. I hate Donald Trump, he's a racist piece of shit. I hate Donald Trump, he can suck my dick. I hate Donald Trump, he's such a fucking prick. I hate Donald Trump, I hate Donald Trump. Donald J. Trump is calling for for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States. You wanna build a wall at the border? Ban the Muslims, ban the Muslims. But CEOs are still millions and still pass customs, and we can't touch them. How we gonna save our economy when his businesses that went bankrupt? How we gonna tell us about family when his ex-wife said he can't be trusted? I hate Donald Trump. He's a sexist and a racist. If it was up to him, his campaign bus would have shackles in it like a slave ship. Stole this land from the natives. How the fuck you gonna ban immigration? How the fuck you gonna run your campaign on a platform of pure hatred? How the fuck you gonna talk to the nation like they ain't shit? They voting for you. And the worst part about the whole thing is these fucking hicks are still gonna support you. I hate Donald Trump. He's a racist piece of shit. I hate Donald Trump. He can suck my dick. I hate Donald Trump. He's such a fucking prick. I hate Donald Trump. I hate Donald Trump. I hate Donald Trump. He's a racist piece of shit. I hate Donald Trump. He can suck my dick. I hate Donald Trump. He's such a fucking prick. I hate Donald Trump. I hate Donald Trump. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're not sending you. They're not sending you. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists. E vabbè, avete sentito che ci sono i campionamenti della voce di Trump che è usata di fondo in questo testo, Banzo, che è molto politico, molto anche tra l'altro esplicito. Beh sì, allora c'è un contrasto di base fra il ritornello, che è veramente semplice perché sono insulti praticamente, e delle strofe che al contrario sono molto molto articolate e descrivono in modo precisissimo le criticità del personaggio Trump. Per esempio inizia con un riferimento ai trascorsi razzisti del padre, diciamo già toglie ogni dubbio dalla scena, ed è un tema che peraltro troveremo anche più avanti in un'altra canzone, ma adesso non portiamoci troppo avanti, rimaniamo su questa. E sì, guarda, potrei analizzare il testo più a lungo, però guarda, anche con Google Translate, se non avete dimestichezza con l'inglese, ve la cavate benissimo, perché è un testo che merita di essere approfondito, e purtroppo con un ascolto solo così al volo forse non si può fare. Però appunto, come dicevo, se da una parte nel ritornello abbiamo insulti schietti e diretti, diciamo che le argomentazioni delle strofe sono invece molto molto forti, molto circostanziate. E quindi abbiamo questo brano di Emilio Rojas che è uscito penso a settembre 2016, quindi poco prima della prima elezione. Emilio Rojas proviene da Rochester, uno stato di New York, è venezuelano per parte di padre. Se adesso andate a recuperare le sue ultime avventure musicali, nell'ultimo anno è stato molto attivo con un gruppo di nome Us vs. Them, con una formazione rock standard, quindi l'effetto Rage Against the Machine è abbastanza forte, lo dico per semplificare. È molto diverso da questo brano che abbiamo sentito, che è una... è un brano trap, spazio definito, scurissimo, minaccioso, dall'incedere veramente pesante, e però questo denota a suo favore c'è una certa varietà stilistica. E comunque, quanto riguarda le sue posizioni politiche, anche rifacendosi agli ultimi brani di Jasper e Susan, direi che non sono cambiate di una virgola, perché ad esempio sono attacchi direttissimi ancora una volta alla polizia, non ci sono poliziotti buoni, sostanzialmente il messaggio. O per esempio in un suo recente video su Instagram condannava senza tanti giri di parole l'aggressione statunitense al Venezuela, e soprattutto il piano di sanzioni che ha, diciamo, contribuito a mettere in ginocchio anche l'economia di quel paese. Sì, senza poi parlare di Cuba. E noi andiamo avanti e troviamo un'altra band storica che io amo molto, i DOA, guidati da Joe Shithead Keatley, insomma 50 anni praticamente di carriera, e nel 2016 rivisitavano un loro pezzo storico dedicato a Ronald Reagan, dedicandolo però a Donald Trump, Fucked Up Donald. Ne parliamo tra poco, ma poi facciamo anche un piccolo medley, perché dopo il brano dei DOA ce ne sarà anche un altro brevissimo, quindi insomma state attenti, e poi spieghiamo tutto tra poco. You're avete capito insomma che qua stiamo parlando di musica forte, eh? Insomma, il Banzo è un grande amante soprattutto del secondo genere, quindi te ne lascerò parlare a te, Banzo. Io però vorrei dire due cose sui Doa, no? Joshi Ted Kittley farà 70 anni in questo 2026, i DOA sulle scene da veramente mezzo secolo, e soprattutto una delle band più importanti del punk e dell'hardcore, che cominciò tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, con una particolarità che loro non sono statunitensi ma canadesi di Vancouver, e questo brano appunto era dedicato inizialmente nell'81 a Ronald Reagan, che insomma aveva appena cominciato la sua prima presidenza, che era Banzo descritto come uno psicopatico guerrafondaio nucleare. Ecco, insomma, un po' di anni dopo hanno parlato di Donald Trump. Beh, sì, perché effettivamente non si butta mai via niente, e quando le circostanze della storia si allineano in questo modo, diciamo che gli echi si sentono, le consonanze si notano. Sui DOA hai già detto tutto tu. Beh, precisiamo però che anch'io sono un amante della core punk senza dubbio, e che loro appunto, come dicevi, vanno stimati in quanto fra i precursori, e non, quasi tutti i californiani, loro non solo non erano californiani, ma erano addirittura canadesi, come hai detto, da Vancouver. Ma parliamo del brano successivo. Vai. In realtà sono tre brani, Steven, perché in 15 secondi vi abbiamo proposto Not So Funny Now, Is It, Motherfuckers, Me First e Body Camera Malfunction, che sono i primi tre brani dell'ultimo mini degli Anal Trump, insomma un gruppo che nasce a sua volta con un riferimento chiarissimo agli Anal Cunt, che non hanno niente a che vedere con Rosario Muniz, ma che erano uno degli antesignani del cosiddetto noisecore, cioè una variante ancora più caotica e slabbrata del grindcore, e insomma guidati da Seth Putnam, una delle figure più controverse della musica estrema. Diciamo solo per brevità che fra gli amanti del grindcore o li si ama o li si odia. Io li odio, penso che appunto fosse una grandissima testa di cazzo e un pervertitore dello spirito originale del grindcore, ma va bene. Però gli Anal Trump si sono serviti di questa idea per perculare, di questo concetto, per perculare Donald Trump, quindi diciamo che qualcosa di buono ne è derivato. E sostanzialmente hanno una carriera anche loro grosso modo decennale. Si tratta di un duo con alla voce Travis Ryan, che è da quasi 30 anni frontman dei Cattle Decapitation, gruppo death grind spesso con tematiche animaliste e ecologiste, e dall'altra parte Rob Crow, che invece è l'anima dei Pinback, che sono un gruppo sempre da zona San Diego, California, dal suono molto diverso fra math rock, indie, quindi una cosa che non c'entra nulla con la musica estrema. E insomma gli Anal Trump hanno pubblicato moltissime canzoni, perché più o meno la durata è questa, e infatti il 28 gennaio, una data molto ricorrente, è uscito questo ultimo EP che menzionavo prima, intitolato Fucking Beach EP. Sono 10 brani, dura 74 secondi complessivi. Su Bandcamp costa $5, ma i proventi saranno interamente devoluti all'Immigrant Defense Project e al National Immigration Law Center. Quindi, se amate queste sonorità, anche se $5 per 74 secondi di musica sono una cifra spropositata, pensate che è per una buona causa, perché è così. Andiamo al 2020, insomma, l'anno poi delle elezioni che Trump perse, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. C'è questo brano che è uscito in quell'anno di un progetto che si chiama Dumb Trump. Sentitevelo. I got a big steaming pile of fuck yous for all you sons of bitches who would like to see me fail. You say you want to, Donald Trump. I say fuck you, Donald Trump. Fuck you, Donald Trump. Fuck you, Donald Trump. Fuck you, Donald Trump. Fuck you. This song goes out to my best friend in the whole wide world. Jeffrey Epstein was my friend. He was my really good friend. Now he's dead. I had to kill him. Jeffrey Epstein was my friend. He was my best good friend. I can't believe he's dead. I'm gonna miss him. He was child torture and he ran a prostitution ring, but most of all, he was my friend. He flew me on his tiny plane with definitely no one on a range. Yeah, he really, really was my friend. Si conclude questo medley in realtà che vi abbiamo proposto. Mi sono prima un po' incartato dopo insomma questo il grind core, il noise, insomma banzo, ho fatto un po' confusione. Dumb Trump è il titolo del primo brano di questo medley che ci siamo appena sentiti ed è uscito effettivamente nel 2016, mentre la seconda canzone che mi ha fatto molto ridere, Jeffrey Epstein Was My Friend, ed è effettivamente il 2020 e la band si chiama The Original Donald Trump. Banzo, insomma, dici tu qualcosa per insomma svelare l'arcano? Temevo moltissimo questa domanda perché non posso dire assolutamente nulla di questo male. Gruppo. Allora, no, è vero Steven, non si trova nessun tipo di informazione. Se digitate di Original Donald Trump fra virgolette, perché sennò poi i risultati si scastano, troverete tendenzialmente le loro pagine streaming, cioè su, che ne so, Spotify, Deezer, quello che vi pare. Io li ho trovati su Bandcamp e non c'è nessuna indicazione di provenienza geografica, nessuna indicazione sui membri, niente di niente, però c'è una discografia con qualche mini pubblicato fra il 2016 e il 2020, un singolo, insomma, queste cose qui, e il suono, appunto, le due canzoni che abbiamo sentito provengono da due pubblicazioni diverse, si sente dal suono, però diciamo che in linea di massima si muovono dalle parti di un garage punk un po' arty, con tantissimo sassofono, credo si sia notato, e come Donald Trump hanno un chiodo fisso, cioè tutte le loro canzoni sono dedicate allo smerdamento imperterrito di Donald Trump. Se la prima ha un messaggio abbastanza veloce, cioè scaricate Trump, dump Trump, con i soliti insulti a corollario, la seconda, che ti ha fatto molto ridere giustamente, è più interessante perché racconta di Jeffrey Epstein in prima persona, cioè chi sta parlando ovviamente è Donald Trump, anzi The Original Donald Trump, e insomma nel 2020 Epstein era già morto da un anno, breve ripassino, si sapeva già molto sui suoi crimini a livello legale, perché insomma era in prigione, è morto in prigione, eccetera eccetera, anche se i cosiddetti Epstein Files erano molto di là da venire, ma è una canzone che già allora dava un quadro molto, molto chiaro della situazione. E Trump, questo The Original Donald Trump, descrive Jeffrey Epstein come veramente una bravissima persona, un caro amico. E poi c'è una cosa, un verso che non so francamente se interpretare più come ironia o più come dietrologia, perché a un certo punto Donald Trump originale dice I had to kill him, cioè l'ho dovuto uccidere. Si sa che la morte di Epstein è, diciamo, ha sollevato molti dubbi. Io non ho un'opinione precisa al riguardo, però ecco, forse ce l'aveva il gruppo di Original Donald Trump, non lo so, o forse era una battuta, ma dai, siccome non sappiamo neanche chi siano, non glielo possiamo chiedere. Andiamo al 2016 con questo brano molto bello, sentitevelo, dopo ve lo spieghiamo. driving that blood pie of human hearts when he draw that color line here at his Beach Haven family project. Beach Haven ain't my home. I just can't pay this rent. My money's half a train and my soul's badly bent. Beach Haven is trumps out. No black folks come wrong. No, no, my trouble. Beach Haven ain't my home. Beach Haven ain't my home. I just can't make this rent. My money's half a train and my soul's badly bent. Beach Haven. Questo è un brano del 2016, in realtà il testo è di Woody Guthrie e il titolo Old Man Trump fa riferimento al vecchio Trump, ossia al padre di Donald Trump, e a voce, agli strumenti c'erano insomma dei nomi importanti come Ryan Harvey, Annie DiFranco e Tom Morello, è vero Fausto? Sì Steven, è un recupero di questo, questa ipotesi di canzone che Guthrie aveva scritto nel 1950 quando, casi della storia, il suo padrone di casa era appunto Friedrich, detto Fred Trump, cioè il padre di Donald. Era il suo padrone di casa e si stava arricchendo spudoratamente, essendo un palazzinaro, questo è il termine giusto, con le sovvenzioni pubbliche per l'edilizia popolare e naturalmente gli affitti. Quindi naturalmente la New York del post Seconda Guerra Mondiale era una miniera d'oro, quindi si arricchiva, però guarda caso sarà perché era stato da giovane nel Ku Klux Klan. Lui, gente di colore o ispanici o altro, nei suoi appartamenti non li voleva. Questa cosa genera ovviamente una forte frustrazione in Guthrie, che credo appena due anni dopo, appena avrà la possibilità di sciogliere il contratto, andrà a vivere da un'altra parte, che appunto scriverà questo testo che ritorna, diciamo, di attualità con la candidatura di Trump. Siamo sempre nell'autunno del 2016, quando appunto nelle varie iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica abbiamo Ryan Harvey che scrive la musica e coinvolge appunto Tom Morello e Annie DiFranco. Ricordiamo anche che Morello, oltre a essere impegnato su Minneapolis con il concerto che per raccolta fondi che è già stato di recente, accompagnerà Springsteen nel suo tour americano di primavera che partirà da Minneapolis e si concluderà a Washington DC. Proprio così, 2016, rimaniamo lì perché troviamo anche Moby and the Homeland Choir con Trump is in your side. Sentiamola, dopo vi raccontiamo qualcosa anche su questo brano. You worked 4 years doing 9 to 5, but you lost your job, yeah, this is your life. You got no hope, you got no plan, but the billionaire, yeah, he's your man. Cause Trump is on your side, yeah, Trump is on your side. He's a billionaire who got a free ride, but he's on your side. You work so hard doing everything right, but you're wide awake in the middle of the night. You're all alone and you're filled with fear, and the billionaire says what you need to hear, cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's never really worked a day in his life, but he's on your side. Don't you worry, cause he really cares about you and me. When he doesn't pay his workers and he calls them slobs, it's only cause he cares about American jobs. Of course he's got your back, and he cares about the middle class. Even if he was raised by a billionaire, you know it don't matter, cause he really does care, cause Trump is on your side. Yeah, Trump is on your side. He's telling you the truth even when he lies, cause he's on your side. Yeah, Trump is on your side. Yeah, he's on your side. He laughs at soldiers who've fallen and died, but he's on your side. Lui è Moby, era il 2016, Fausto, eravamo sempre in quell'autunno e Moby insomma ha detto faccio una canzone country per i sostenitori di Trump per cercare insomma di convincerli di non votarlo, poi insomma non è servita molto, ma questa frase che lui ha detto è molto bella: nessuna persona sana di mente assumerebbe un clown arrabbiato e inesperto per riparare le tubature, quindi perché una persona sana di mente dovrebbe pensare di assumere un clown arrabbiato e inesperto per governare il paese? Beh insomma, l'avessero ascoltato un po' di più. Infatti i meccanismi psicologici dell'elettorato di Trump sono abbastanza insondabili, anche se però qui Moby ci prova con questo brano che appunto ha detto paradossico quando parla di Trump dalla tua parte, non ha mai lavorato un giorno nella sua vita, ha ereditato una fortuna miliardaria, però è dalla tua parte. Sono meccanismi psicologici che hanno funzionato nel 2016, per poco non hanno funzionato nel 2020 e poi di nuovo sono tornati alla carica nel 24, però comunque apprezziamo l'impegno di Moby che oltre ad essere naturalmente in lotta per i diritti degli animali è un attivista di primo piano che sta chiedendo ancora tuttora il boicottaggio delle corporation che sostengono Trump e l'attività dell'ICE. Noi andiamo al 2020 e troviamo Philemon Simon con questo brano intitolato appunto, sentite in francese, Trump parla come Elvis. Trump ovviamente parla come Elvis. Parla come Elvis. E c'est pour ça qui veut gagner les élections malheureusement. Et qu'il y aura une guerre civile et puis après une guerre mondiale. Dans son comeback en 68, le même sourire, les mêmes yeux fous, le geste slack, pis la même moue, pis les mêmes mots, on va mourir. Et c'est pour ça qu'on est fini, c'est pas des blagues, j'suis très sérieux. Moi j'en veux pas de guerre mondiale entre nos amis, les hommes heureux. Les femmes écoutent, pis coûte que coûte, faut faire de quoi pour nos enfants. Je veux pas qu'ils meurent, je veux pas qu'ils partent, c'est à nous autres faire un changement. Les gars, les filles, on est toutes coupables si on fait rien, laisser un monde en destruction aux générations qui ont rien demandé, même pas de vivre. Puis ça va fesser en tabarnak, il va falloir avoir des guns pour sortir dehors. Ça sera même plus le confinement, ça va être les bombes. Puis ça va pleuvoir, de gros obus, y a rien de drôle là, c'est dramatique. Je veux pas crever, vous autres non plus, pour un gros cap qui a pas d'éthique, qui choisit la violence à tour de bras. C'est sa jouissance puis si c'est pas dans le cœur. Ça va être dans la tête, puis c'est pas dans la tête, ça va être dans l'âme, on est tout à blâmer. Si on fait rien, on va choisir de mourir, ça sera notre choix, puis ça sera juste fini. On n'en vient pas de cette affaire-là. Si on décide de se taire, ça va être la guerre. Mais faut trouver un bon moyen, parce que la violence, ça sert à rien. E qui andiamo banzo in Canada, più precisamente in Quebec, per trovare questa canzone pubblicata poco prima delle presidenziali del 2020, che poi Trump, come sappiamo, perse contro Biden, ma poi insomma già parlava di brogli elettorali e insomma menzogne varie che portarono poi all'assalto a Capitol Hill del gennaio del 2021. Ma insomma, parliamo un po' di questo brano e soprattutto anche di questo artista, Philemon Simon. Philemon Simon, che è uno pseudonimo perché lui si chiama Philemon Bergeron Langlois, quindi Philemon è il nome vero, questa cosa mi ha colpito molto. Beh sì, nel testo comincia dicendo che Trump parla come Elvis ed è per questo che purtroppo vincerà le elezioni, quindi non è stato buon profeta, anche se poi insomma ha vinto le successive, quindi eccoci da capo. Sì, è un brano che è stato pubblicato da Simon il 16 ottobre del 2020, per commemorare anche il 50° anniversario dell'arresto di massa di 457 Québécois in seguito all'imposizione di misure di guerra da parte di Trudeau padre, non Justin Trudeau. E, diciamo che ovviamente era voleva essere una stretta contro, diciamo, gli elementi armati, ma fra questi 457 erano in maggior parte intellettuali, artisti che non avevano, erano anche indipendentisti, ma non avevano nessun collegamento con la lotta armata. E Simon trova un collegamento con una possibile seconda elezione di Trump, che poi è avvenuta 4 anni dopo. Noi non necessariamente magari ci troviamo d'accordo su questo dettaglio, però comunque il brano è veramente bellissimo, con questo folk un po' psichedelico, un po' visionario, questo contrappunto leggermente fuori tempo, la voce femminile che mi fa impazzire. E purtroppo l'abbiamo anche dovuto tagliare perché il tempo è tirando, come sì. Sempre tu, e come purtroppo è davvero, andiamo avanti. Dura quasi 6 minuti. Eh sì, andiamo quindi avanti, purtroppo chiudiamo, però non ci limiteremo al francese, perché sembrava una puntata di sole canzoni in inglese. Abbiamo ascoltato un po' di francese e adesso passiamo addirittura all'italiano. Esattamente, con Mara Redeghieri, eccola qui. Forse la tua palla sul quad. Accelera, accelera, spingi a tutta birra, piglia la rincorsa, scasa. Sale sopra il tetto, scende nel tombino, spiaccica d'asfalto, 4 gatti ed un vecchino. Accelera, spinge tutto spiano, brutta scureggia, caga. Brano di Mara Redighieri, Stramp, usciva nel 2017, il suo album da solista Fausto, no? Che usciva dopo, insomma, la fine degli Us Mamò, è un brano ironico su, insomma, l'elettorato MAGA e l'elettorato di Trump. Sì, è una satira, questo Stramp, no? Quindi, diciamo il titolo, diciamo sull'attitudine volgare e distruttiva dei fedeli dell'ideologia MAGA. E d'altronde tutto l'album di Mara Redighieri, che era il suo primo da solista dopo l'esperienza storica con gli Us Mamò, è tutto dedicato a uno sguardo critico sulla realtà contemporanea e su come il neocapitalismo aggressivo abbia quasi distrutto il pianeta. E questo caso, lo Stramp che descrive Mara, tra l'altro il brano è scritto insieme a Lorenzo Valdesalici, sì. Ricorderete, è uno dei componenti dello Stato Brado che ben conosciamo. Diciamo che descrive questo alter ego di quello che all'epoca era il nuovo neoeletto presidente degli Stati Uniti come un tamarro, quindi la tamarraggine al potere, che sgasa, scivola, si impenna e ha denti di diamante e cuore di serpente. Esattamente. Quindi, veramente una satira a tutto spiano. Molto bella. Fausto, grazie di essere stato con noi e ci ritroviamo presto qui a Zibaldone. Assolutamente, ciao Steven e buona serata a tutti, a presto. Banzo, noi rimaniamo nel 2017 con questo brano strumentale di un italiano che vive a Tokyo, si fa chiamare Earthquake Island e ha scritto un brano intitolato No Ban Old Blonde Guy, ossia niente ban divieti all'ingresso di molte persone da paesi soprattutto musulmani negli Stati Uniti, vecchio uomo biondo, no? Sì, guarda, è interessante perché questo significa che nel 2017 Trump veniva percepito come biondo, cioè non era ancora The Orange Man, come viene chiamato adesso. Questa cosa è interessante e ne diamo atto a Emiliano Ruggero, che ci ha dato una testimonianza storica. Emiliano Ruggero è l'uomo che si cela dietro Earthquake Island, cioè l'isola del terremoto, credo che sia il Giappone, cioè il posto dove vive. E lui vive da 20 anni a Tokyo, dove gestisce la label I Love You Records. L'ho scritto come basso, non come amore. Sì, produce musica fra hip hop, ambient, elettronica, sperimentale e con ampio uso di campionamenti, come si sentirà anche in questo brano. E appunto in questo 2017 pubblica questo brano strumentale che però insomma parla in modo chiarissimo attraverso i campionamenti, descrivendo la sua indignazione per il Muslim ban. Diciamo che il Muslim ban forse farà il bando. Siamo alla fine, Banzo, dobbiamo chiudere. Tutte già parte le porcate della prima amministrazione Trump è stata una delle più forti. Eh sì, e noi ci salutiamo, ci ritroviamo venerdì prossimo. Grazie a tutti, Banzo. Come diceva il primo sindaco socialista di Madrid alle 17:57, ormai, che diceva tutti i venerdì? Avrete capito che Trump non ci piace. Eccolo credo, lì. Credo. Bye bye. commander-in-chief to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here. White supremacy.